Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! Oh, no, ed eccoci qua, buonasera, buonasera a tutte e tutti, tuttulu, ascoltatori di Radio Wombat. Qui siamo e siete di nuovo su Nervature. Allora do un subito enorme, grandissimo saluto a tutte le ascoltatrici e lo dà anche il mio ospite in regia. Ti puoi presentare se vuoi oppure no. Ciao a tutti, sono Andrea. E niente, mi ha ospitato Ad, ci siamo conosciuti a un master insieme e mi ha detto: perché non facciamo una puntata in cui parliamo? Di che parliamo? Di che parliamo? Allora, oggi l'argomento è veramente grosso, infatti... Enorme. Vi svelo, ascoltatrici, che abbiamo appena fatto un briefing sulla scaletta e siamo un po' in difficoltà perché probabilmente potremmo fare 6 o 7 puntate al riguardo. Ma intanto iniziamo con una, sempre bene iniziare con la prima puntata. Allora, l'argomento di oggi è l'empatia. L'empatia, un sentimento che conosciamo, direi, tutti noi esseri umani, cioè quella cosa... Quasi tutti. Qualche eccezione c'è. giusto, è vero. Però per sentito dire, dai, insomma, ogni tanto qualcuno... Una lettura al vocabolario è capitata a tutti, insomma. Sì, dai. Ma ridiciamolo, quindi. L'empatia è quella cosa per cui io, individuo, sento, riesco a percepire l'emozione di un'altra persona. Quindi che ce l'ho vicino a me o lontana, che l'abbia conosciuta o no, insomma... Quello è indifferente, il punto è che sento quelle emozioni lì e quindi questo provoca una serie di, ovviamente, risultati, diciamo, perché avendo empatia con quell'altra persona, allora mi viene da comportarmi in modo diverso, magari proteggendola o, insomma, una serie di cose che sappiamo tutti bene. Il punto però, come sapete, siamo su Nervature, quindi noi parliamo di piante, vorremmo arrivare a discutere riguardo all'empatia sulle piante, però... Piano piano. Se ci arriviamo, infatti. Quindi vorremmo partire, l'empatia sappiamo tutti cos'è, ora l'abbiamo ridetto. Partiamo quindi da uno step un po' successivo, che è l'empatia verso gli animali. E vediamo quali animali, appunto. L'argomento, come dicevamo, è grosso. Per poi vedere se si arriva a un'ipotetica empatia con le piante. Bene, allora, prima però di lanciarsi in questo tuffo incredibile verso questo grande argomento, direi di mettere subito un primo pezzo introduttivo. Lo vuoi introdurre te? Certo, adesso ascolteremo tutti quanti insieme il brano Plantasia di Mort Garson, tratto dall'album Mother Heart Plantasia, che appunto è un album del 1976 in cui Mort Garson, quel pazzo, decide di scrivere un intero album dedicato alle sue piante. Quindi per ogni sua pianta lui crea una canzone da fargli ascoltare. E si dico, se questa non è empatia vegetale, cosa lo è? Infatti si parte subito con un mega spoiler, così per dire in realtà l'empatia per le piante c'è e come. Ma io credo che se avete ascoltato Nervature altre volte, direi che ormai questa follia l'avete già percepita tante altre volte. Benissimo, questa è Plantasia, Mort Garson, e buon ascolto, a tra poco. Thank you. assoluto. Ed eccoci, tornate in voce, quindi questa era Plantasia, Morte Garson, e Andrea vi ha fatto prima un'ottima introduzione, e chissà, magari parleremo anche meglio di questo album, perché è tutto un album appunto, in una prossima puntata, chissà. Speriamo. Rimanete connesse nel dubbio. Allora, iniziamo quindi questo colossale argomento. Come si diceva, parliamo di empatia, e empatia innanzitutto verso gli animali, quindi sappiamo benissimo tutte e tutti che capita di avere empatia verso gli animali, a partire chiaramente dagli animali domestici. Quindi se io ho un cane, un gatto a casa, comunque è molto probabile che provi dei sentimenti verso quell'essere, insomma, no? E questo lo sappiamo tutti. Lo ridico solo perché magari a volte non ci si rende coscientemente conto delle emozioni e delle cose che ci capitano, solo per questo. Quindi magari uno non ci ha riflettuto e dice: ah, aspetta, effettivamente mi dispiace se il mio animale soffre, non ci avevo pensato. Quindi partiamo da questo, sapendo, diciamo, un po' anticipando, poi lo parleremo meglio dopo, che in realtà noi, quando diciamo empatia verso gli animali, non ci riferiamo proprio a tutti gli animali che esistono. In particolare, di solito, ai mammiferi, quindi appunto cani, gatti, cavalli, cos'altro ci può venire in mente? Comunque, leoni. Ma sì, tutti i mammiferi, tigri, esatto. Gazzelle, qualsiasi, diciamo, mammiferi ovviamente sono gli animali a noi più vicini, e quindi è più semplice sviluppare un rapporto empatico con questi. Esattamente. In generale, però, gli animali di cui abbiamo un qualche tipo di considerazione sono di solito vertebrati. Ok, questo ne parliamo, lo approfondiamo un po' meglio dopo. Io però volevo partire, ma direi che forse mi metto anche un tappetino sotto, perché penso che possa fare piacere sentire un po' di... Tra l'altro, allora, tappetino, vogliamo introdurre il tappetino? Sì, tappetino, introduzione veloce. L'album si chiama Green di Hiroshi Yoshimura, è un album dell'86. Hiroshi Yoshimura è famoso per essere uno dei primi artisti a essersi dato alla musica ambientale, e Green è appunto un suo album di musica ambientale in cui si ispira alla natura. Ed ecco, quindi lo state sentendo in sottofondo. Allora, dicevo, io volevo un po' partire tutta questa grande argomento facendo un excursus che spero non sia troppo noioso riguardo alla considerazione legale che noi abbiamo di altre specie viventi, quindi appunto animali, ma anche magari piante, e poi vediamo che in realtà la legge, insomma, si espande un po', non fa grandi compartimenti stagni e spesso mette insieme piante e ambiente. E vabbè, l'ambiente comprende tutto, insomma, sono gli habitat, quindi sono ciò che di più complesso esiste al mondo, credo. Più della fisica quantistica, senza dubbio. È una bella sfida, una bella sfida, una bella decisamente. Sfida. Allora, quindi vorrei partire un po' da questo. Il punto, vi spiego un po' proprio la mia riflessione, è stato che ho ipotizzato, ero abbastanza convinta che ci fossero molte più leggi e diciamo tutele in generale verso gli animali piuttosto che verso le piante e cose associate alle piante, diciamo. In realtà poi nella ricerca ho visto che sì, c'è un po' questa tendenza, però ci sono ormai tante leggi nazionali e non, spesso anche proprio dichiarazioni internazionali, che invece tutelano ormai proprio gli ambienti, gli ecosistemi, specie a rischio, eccetera, eccetera. Però, allora, partiamo quindi un po' dall'inizio, diciamo, da quello che ho scoperto. Allora, intanto esiste una dichiarazione universale dei diritti dell'animale, un po' come c'è sull'uomo, c'è anche sull'animale. È stata fatta dall'UNESCO nel 78 e non è... cioè, diciamo, segue gli stessi principi di quella dei diritti umani alla fine, e quindi praticamente c'è scritto, per esempio, che tra l'altro dice cose interessanti, dice: il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro. non lo so, io l'ho trovato interessante. E questo è molto interessante, perché dice che poniamo tutto allo stesso livello, quindi è un bel passo avanti morale per, esatto, diciamo, la storia dell'uomo. Esatto, esatto, assolutamente. Anche perché io, diciamo, credo che nello scrivere una dichiarazione universale dei diritti dell'animale non fosse necessaria questa frase, non fosse necessario metterci sullo stesso piano, però è stato fatto. Cioè, non è, non lo so, potevano anche dire che noi abbiamo dei diritti, nonostante siamo animali, riconosciamo dei diritti non per forza identici anche agli animali, ma potremmo tenerci anche su un piano diverso. Si potrebbe diverso. Distinguere i due gruppi, invece si è deciso di fare tutto, di tutto un'unica cosa. Esatto, di collegarli, è esatto. È una bella presa di posizione questa, sì. Infatti, infatti, ripeto, tra l'altro è del 78, quindi non è nemmeno di ieri l'altro, non è nemmeno super vecchio, ovviamente, comunque appunto come si commentava prima fuori dai microfoni, è comunque una conseguenza probabilmente di tutti gli anni 60-70. Sì, figlio dei sessantottini. Esatto, esatto. Poi dice altre cose interessanti. Dice l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia ad osservare, comprendere e rispettare e amare, scusate, gli animali. Quindi c'è anche un po' una visione, diciamo, di come dovrebbero entrare questi diritti all'interno di un tessuto sociale. Quindi proprio per collegarli alla fine a questioni morali, cioè sembra proprio che questa dichiarazione, beh, un po' come tutte le dichiarazioni di diritti, voglia proprio legiferare sull'etica mondiale riguardo a un certo argomento, insomma, un certa fascia di esseri viventi. E poi, insomma, e poi c'è tutte le varie, i vari diritti, che sono il diritto alla vita, ovviamente, il diritto a... appunto nel caso in cui gli animali vengano usati per lavoro, questi hanno diritto a un rispetto, quindi devono avere certe ore di riposo, una certa cura, un po' come per noi umani, o almeno per come, certo, dovrebbe essere. Qualsiasi lavoratore dovrebbe avere gli stessi diritti. Esatto, infatti. Ovviamente parla della sperimentazione animale e a questa ci collega il concetto di sofferenza fisica o psichica, anche lì interessante, che non è banale comunque, perché definire che cos'è sofferenza, sì, forse nel caso degli animali è più semplice, il sistema nervoso, però non è semplice per tutti gli esseri, sì, viventi. Poi parlare anche di sofferenza psichica negli animali già presupponi che non siano solamente esseri fisici che percepiscono cose, cioè tu gli dai uno stimolo e loro lo percepiscono, cioè se c'è sofferenza psichica, vuol dire c'è anche un layer superiore a tutto questo. Infatti mi era sembrato interessante. E poi, ultima cosa, ovviamente ce ne ha scritte molte di più, io sto solo facendo un mega riassunto, mi sembrava molto particolare il fatto che c'è scritto l'animale morto deve essere trattato con rispetto. Questo non me l'aspettavo. Neanch'io, per niente, anche perché è un po' paradossale, se ci pensiamo, perché noi gli animali li mangiamo. Ora, ad esclusione di vegetariani, vegani, antispecisti, tendenzialmente l'umano è in grado di mangiare animali, anzi è una parte importante della sua dieta. Quindi cosa significa rispetto? Cioè, se li rispetto posso comunque mangiarli? Forse alcune tribù native americane potrebbero dire sì, certamente. Non, infatti non pensavo vanno proprio in contraddizione a loro, che cose. In realtà mangiare l'animale può essere anche un segno di rispetto, cioè potrei fare di peggio, potrei anche uccidere l'animale per il gusto di ucciderlo e lasciarlo lì. Pensiamo agli animali impagliati. Eh sì. Ecco, magari tra, esatto, i due il rispetto, esatto, cambia. Quindi, insomma, mi era sembrata, come dici te, una bella presa di posizione questa dichiarazione, ripeto, del 78. Allora, poi invece, guardando un po' l'Unione Europea, visto che noi ne facciamo parte, ho guardato un po' come si muove all'interno di questi argomenti e c'è ovviamente varie leggi che tutelano gli animali, a partire dalla Convenzione Europea del 92, che però curiosamente dice protezione degli animali da compagnia. Non tutti, solo quelli a compagnia. Solo da compagnia. Però in realtà dentro, quindi è un po' strano il titolo, però dentro c'è scritto rispettare tutte le creature viventi. E anche lì le creature viventi sono molti di più degli animali. le creature viventi sono molto molto di più degli animali. Infatti, anzi. Infatti. E questo secondo me è un po' indice del fatto che sì, sta facendo passi avanti e tutto, però tutt'oggi secondo me non c'è un'adeguata diciamo, percezione grazie. Giusta di quali sono i rapporti della vita. Esattamente. Nel nostro mondo. Esattamente. Certo. Quindi diciamo creature viventi senza renderci conto che in realtà nella nostra testa stiamo pensando solo a una piccolissima parte. Minuscolo gruppo degli esseri. Infatti. Poi invece volevo citarvi, sempre dello stesso anno, quindi 1992, la direttiva Habitat. È una direttiva molto articolata, molto complessa, che mi è sembrata particolarmente interessante proprio perché non sta più focalizzando l'attenzione verso delle specie, quindi un po' diciamo settorializzando l'esistente, settorializzando tutta la vita, ma vuole creare, cioè vuol far sì che si proteggano gli habitat, gli ecosistemi nel loro complesso. Poi, vabbè, ora diciamo che essendo una legge, una cosa scritta che deve essere precisa e tutto, ovviamente poi fa una categorizzazione di quali habitat esistono nell'Unione Europea. Quindi chiaramente c'è una settorializzazione, madonna, parole difficili. Comunque, mi è sembrata rilevante, quindi dice appunto conservazione degli habitat e della flora e fauna selvatiche, quindi mette proprio l'accento sul selvatico, quindi su quello che dovrebbe essere, dovrebbe riuscire a vivere diciamo, a prescindere dall'attività umana. E tutta la normativa è costruita intorno a due pilastri, che sono una la rete ecologica Natura 2000 e l'altro il regime di tutela di tutta una serie di specie, quindi anche qui si ritorna a una settorializzazione. Allora, rete ecologica Natura 2000 è anche lì un elenco, insomma, di habitat da preservare, quindi un'attenta e approfondita analisi riguardo a tante tipologie di habitat o comunque di ambienti naturali. Il regime di tutela invece, come dicevo, tutela le specie nello specifico e in più c'ha tutta una serie di vieti. Per esempio dice è vietato la cattura e l'uccisione deliberata in natura, un disturbo intenzionale nelle fasi di riproduzione o nell'allevamento o nelle fasi di letargo, di migrazione. Ovviamente dice è vietato anche il deterioramento o distruzione di siti di riproduzione o di riposo, quindi qui una visione un po' più ampia, no? Come si diceva, quindi di distruzione del sito, quindi dell'ambiente all'interno della quale una specie vive. E una serie di altre cose, insomma, vieta l'uso di mezzi di cattura e uccisione, sempre vieta la custodia, il trasporto, la vendita di esemplari prelevati in natura. Comunque tutto ciò suona abbastanza rivolto agli animali di solito, almeno per come l'ho letta io. Se poi però si va più nello specifico, tutta la lista delle specie protette è molto ampia, però se ho capito bene, diciamo, se sono riuscita a interpretare bene il tutto, viene divisa in, diciamo, blocchi, in, diciamo, fascicoli, chiamiamoli così. Quindi questa viene chiamata lista rossa, di tutte le specie divisa in fascicoli, e per esempio c'è il fascicolo dei mammiferi, il fascicolo dei rettili, quello degli anfibi, quello delle farfalle, insomma, appunto a settori. Ne ho trovati alcuni interessantissimi, bellissimi. Ora ve li ritrovo. Eccolo qua. Lista delle piante vascolari. Quindi molto ampio, veramente molto molto ampio. La prendiamo larga, la prendiamo, esatto. Molto ampia. Poi però c'è anche delle piante medicinali, che direi che comunque rientrano sono, nelle, esatto, piante vascolari. Nelle piante vascolari, esattamente. Invece ce n'era altre fantastiche, ora scusate ve le ritrovo, vabbè, insomma, ora non le ritrovo, comunque sarebbe il fascicolo riguardante tutte le briofite, quindi comunemente chiamati muschi, certo. io ve lo giuro, non pensavo ci fosse una cosa del genere, quindi mi sono scaricata il fascicolo di 100 pagine all'incirca, e è fantastico, è veramente super dettagliato, con foto, con descrizioni un po' delle specie, con tutto l'elenco delle specie, sono tantissime, veramente protette, incredibile. Quindi è stato l'unico di questo fascicolo che ho aperto, perché era quello che mi incuriosiva di più. Il catalogo perfetto per chi vuole fare il presepe quest'anno. Esattamente, esatto. Molto dettagliato, un presepe di un certo tipo, di un comunque. Certo livello. Sarebbe molto interessante, davvero. E, insomma, comunque, quindi ho potuto assaggiare il fatto che questi fascicoli sono, nonostante siano settorializzati, sono comunque veramente ben fatti. Quindi mi è sembrata appunto una normativa interessante. Oltre a questo, all'interno di questo si vede anche riferimento alla strategia sulla biodiversità per il 2030, che in realtà è per il 2050, ma vabbè, speriamo venga attuata tutta una serie di norme, in cui però non vorrei addentrarmi, se no veramente si va troppo per le lunghe. Altra cosa però fondamentale è invece l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che è stato aggiunto nel 2012 e dice che gli animali sono esseri senzienti e in quanto tali bisogna assolutamente rispettarli e rispettare le loro necessità. Quindi è buffo, perché comunque è dal 78 che abbiamo la dichiarazione sui diritti degli animali, ma è nel 2012 che si inserisce un articolo del genere. Quindi appunto la legge non è ovviamente mai di pari passo, no? Con la percezione che abbiamo del mondo, e è normale che sia così. Allora, forse io farei un'interruzione musicale, perché mi sembra che questi temi siano un po' difficili forse da digerire. Dopo questa carrellata mandiamo qualcosina. Esatto. Allora, quindi interrompiamo un po' questo piacevole, comunque, sottofondo, davvero piacevole. È un bell'album. Sì, penso che lo riciclerò per altre puntate. E potremmo mettere, vediamo, Stevie Wonder, o lo segniamo per dopo? No, dopo. Allora mettiamo una canzone, non c'entra niente, giusto per proprio rilassare le orecchie, va benissimo. Ok, allora mettiamo quindi Sona Jobarté con Mama Che. Buon ascolto. Futata dalia sobe mato niente butu mama ke itele yatina teye ninjalia siluta kang futandina roma. Mama ke Thank you. Ed eccoci, quindi tornate in voce. Allora, avete sentito due brani di Sona Jo Bartè, fantastica musicista che suona anche la cora. Sì, molto belli questi due brani. Belli. Quindi il primo Mama Che e l'altro Mama Muso. Chissà se mamma, non so se aveva un significato specifico. Mamma mia. Esatto. Allora, quindi ripartiamo con questo ultimo slot riguardo a, come si diceva, l'excursus legiferoso in cui ci siamo addentrate. Questa avventura... Esatto. Donchisciottesca, la definirei. Nulla, addirittura. Dunque, quindi, vi ho parlato delle norme europee, sintetizzando, ce ne sarebbe altre sicuramente, però... così, diciamo, per avere un quadro generale. Invece ora volevo un po' riscendere nel dettaglio, poi dopo ci riapriamo invece verso l'internazionale. Ma quindi, appunto, parliamo adesso invece di cosa succede in Italia. Allora, intanto nel codice penale, quindi scritto negli anni 30, c'è scritto che siamo sanzionabili se si prova la morte di un animale per crudeltà o senza necessità, senza che ci sia un bisogno specifico dietro. Quindi questo, non so, io me l'aspettavo che ci fosse una cosa del genere. Comunque nel codice penale, fin dagli anni 30, sì. Dai, non male. Interessante. Non male. La cosa che mi ha stupito tantissimo invece è che nel 1923, quindi prima della stesura del codice penale, c'è stato un regio decreto che appunto diceva che bisogna tutelare tutto il patrimonio forestale. Quindi è una delle prime norme in Italia da questo punto di vista. E, non lo so, a me mi è sembrato abbastanza incredibile. Non pensavo che fossimo tutelati a questo punto di vista fin dagli anni 20. Già dal 23 vuol dire che allora c'era già una certa attenzione. Esatto. Questo è interessante perché forse siamo noi che ci siamo dimenticati di questa attenzione recentemente. Invece noi stiamo dicendo adesso portiamo... un sacco di concetti all'avanguardia, invece stiamo semplicemente ripescando tutto ciò che è stato detto 100 anni fa e poi esatto. Abbiamo dimenticato. Tra l'altro questa, sembra assurdo il che dico, però è interessante perché delle volte mi è capitato di parlare con delle persone anziane che quindi a quell'epoca erano magari bambini o comunque i loro genitori sono di quell'epoca e anche loro sostengono che in realtà ci siamo allontanati dalla natura, cioè prima era molto più normale, cioè per esempio delle volte ho sentito dire che degli anziani non riescono a capire cosa significa biologico, perché dico ma in che senso biologico? Cioè, è tutto non biologico, usi pesticidi, ma cosa sono i pesticidi? Cioè c'è ancora tutt'oggi nel 2024 conviviamo con alcune persone che hanno proprio una visione del mondo diversa a noi, per fortuna direi. E quindi diciamo mi piace mettere sullo stesso piano, cioè su diciamo portare allo stesso piano dicerie, diciamo, della vita comune e invece cose legislative che di solito vengono molto allontanate, sono proprio su piani diversi, invece no, avviciniamoli perché di solito uno dovrebbe essere in funzione dell'altro, quindi sì, dovrebbe esserci un incontro tra i due. Esatto. Adesso a volte c'è un muro, ma Ce la caveremo in qualche modo. Sì. Comunque sì, è come dici te, infatti mi sembra interessante perché magari prima c'era di più considerazione riguardo alle specie vegetali e ora forse ci siamo riallontanati. Vediamo, andiamo avanti. Allora, c'è un sacco di leggi anche di tutela degli animali, anche in risposta a quelle che si erano viste prima dell'Unione Europea, quindi la tutela delle specie di animali da compagnia e non solo, insomma. Quindi c'è tante leggi che in Italia, diciamo, rispondono alle normative europee, ovviamente. Altre cose interessanti però sono una serie di leggi, vabbè, quelle che proteggono la fauna selvatica, altre che rispondono alla direttiva in protezione degli habitat. Invece andando un po' più nei giorni recenti, diciamo, nel 2013 in particolare, segnalo molto volentieri una legge 10 del 2013, che è a tutela degli alberi monumentali. È una categoria molto specifica, stiamo parlando innanzitutto di specie vegetali e non solo di alberi e non solo di alberi monumentali, certo. Quindi una piccolissimissima frazione, una piccolissima parte degli alberi esistenti, che in particolare sono alberi che per noi esseri umani hanno un valore, che può essere un valore di tanti tipi, storico, tradizionale, quindi anche culturale, anche ambientale però. Quindi di solito tutte queste, diciamo, tele si intrecciano all'interno di questa legge e ogni tanto succede che viene proposto appunto, ma quest'albero per queste ragioni potrebbe, diciamo, essere considerato albero monumentale, allora poi viene discusso e magari approvato, magari no. E è interessante quindi perché dal quindi 2013 in poi riconosciamo il fatto che alcune presenze arboree sono particolarmente importanti per noi e le consideriamo come dei monumenti viventi. E hai detto poco, monumento, ben sappiamo, cioè è qualcosa di... è un aggettivo molto forte. Esatto, infatti. Poi addirittura uno, se si volesse, si potrebbe scendere ancora più nei particolari, ma aspetta, ma monumento di solito è una statua o qualcosa di simile, quindi è qualcosa di inanimato, quando invece un albero è appunto, come si dice, un monumento vivente, quindi sarebbe addirittura quasi a trovare una parola ulteriore, ancora diversa, proprio per dare il giusto valore a quella cosa, perché sì, è un monumento, ma come monumento noi pensiamo a una cosa statica, mentre invece preservare un monumento vivente è molto diverso da preservare una statua. Non si può fare un restauro su un albero. Quindi no, certo. C'è proprio un tipo di tutela veramente specifica. Soprattutto in continuo cambiamento, non si arresta mai. Anzi, quando muore, l'albero, penso, smetta di essere monumento. Sì. Sì, direi proprio di sì. Non mi sono mai posta questo problema, devo dire la verità, però sicuramente. Chissà se dal 2013 esiste... una specificazione? No, caso. Chissà se qualche albero monumentale, quindi dal 2013 in poi, è morto nel frattempo, non è detto. Ho paura di sì, purtroppo. Dici, secondo me, purtroppo sì, capita, malattie varie possono portare anche alla morte di... questi grandi saggi, allora, chiamiamoli. Già, esatto. Comunque, quindi, lo stesso tipo di atteggiamento, di tutela verso questi, appunto, monumenti viventi, è un po', diciamo, l'inizio, no, non è l'inizio, comunque è lo stesso tipo di approccio che si ha o che dovremmo avere riguardo ai giardini e parchi storici, proprio per lo stesso motivo, perché hanno un valore importante per noi, storico, eccetera, e quindi, essendo però... diciamo casa di tante specie viventi, non solo vegetali in quel caso, ovviamente il preservarli è veramente una materia spinosa, insomma affascinante anche. Quindi allora, comunque andiamo avanti. Citavo prima la legge del 1923 sulla tutela delle foreste, e poi nel 2018 ci è ripresa che forse bisognava tutelarle di più, o forse ci eravamo scordati appunto di aver già fatto una legge in merito. E quindi il patrimonio forestale nazionale viene considerato bene di rilevante interesse pubblico per il benessere delle generazioni presenti e future. Quindi è bello comunque perché c'è una prospettiva appunto verso il futuro. Quindi andando avanti invece, altro elemento fondamentale, soprattutto perché molto attuale della nostra normativa, è che nel 2022, quindi 2 anni fa, è stato aggiunto un articolo, anzi modificato, degli articoli della Costituzione italiana, in particolare il 9 e il 41, e quindi si è introdotta la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli animali all'interno dei principi fondamentali della Costituzione. Quindi questo direi che è un ottimo passo avanti, anche se non sempre viene rispettata la Costituzione, ma va bene. Beh, questo è un altro discorso, esatto. In cui non mi addentrerei adesso. Però diciamo che no. Anche se con un po' di ritardo ce l'abbiamo inserito, quindi di questo siamo contenti. Esatto. E questi, quindi questo era un po' per quanto riguarda la normativa italiana. Allora, rifacendo però un passo indietro in avanti, a seconda dei punti di vista, quindi su una visione più internazionale, vi faccio un po' così di altri esempi spot riguardo a altri paesi o altre cose, appunto dichiarazioni internazionali e così via. Per esempio, molto interessante a proposito di Costituzione, il fatto che nella Costituzione svizzera dal 1992 è scritto che tutti gli esseri viventi, quindi umani, anzi no, scusami, sbagliavo, gli esseri umani, animali e l'ambiente, quindi non propriamente gli esseri viventi, hanno dignità. Tutto ha una dignità. Hanno scritto gli umani, gli animali e poi tutto il resto, anche, esatto, quel che volete, l'ambiente. Sì, che è un po' strano, però già è qualcosa. Però poi è stata un po' modificata, comunque sono state aggiunte diciamo parti da parte del Comitato Etico sulle Biotecnologie Non Umane, questa strana entità, che nel 2008 ha detto che le piante hanno dignità e bisogna averne una considerazione morale. Quindi lì chissà cosa intendevano, potevo addentrarmi meglio in che cosa intendessero in queste parole, ma direi che la possiamo butto andare lì. Avanti. Esatto, la buttiamo possiamo lì, andare buttiamo avanti. Altre cose interessanti è che proprio a livello di appunto leggi molto importanti negli stati, posso citare l'Ecuador, che ha fatto una dichiarazione dei diritti di Madre Terra. Questa è una cosa, direi, bellissima. Bellissima, bellissima, sì, assolutamente. Quindi Madre Terra, ovviamente loro chiamano Pachamama, che è un suono un po' più empatico, appunto. Sì, caloroso. Un po' più caloroso. Anche bello da dire, la mattina, infatti, Pachamama. Infatti. All'interno di questo ho voluto estrapolare una piccola definizione che magari può risuonare un po' meglio, diciamo, al nostro sistema di etica e di valori. Natura viene definita in questo modo: è il sistema vivente dinamico costituito dalle comunità indivisibili, quindi indivisibili le comunità, di tutti i sistemi di vita e dagli esseri viventi, interdipendenti e complementari, che condividono un destino comune. Cioè, insomma, due righe in cui dice sei volte la stessa cosa, cioè che la natura è un sistema proprio di interrelazioni ed è natura in quanto interrelazioni, cioè senza queste interrelazioni, quindi sinergie, quindi non vengono le parole. Sì, sinergie, ma anche antagonismi. Simbiosi, cercavo. Simbiosi. Antagonismi anche, certamente, sì. Competizioni, insomma, tutte queste tipi di interrelazioni si forma la natura, si formano i sistemi. Definiscono ciò che è la natura. Esatto, quindi poetico. Veramente, sì, a dir poco poetico. E questa era solo la definizione di natura, e poi c'è tutto il resto della dichiarazione, però andiamo avanti. Anche però quella peggiore, a quanto pare, no? Non lo so. Bella, sempre poetica così. Non lo so, io mi piace pensare sia poetica, però possiamo andare a rispulciarci. Per noi lo sarà. Esatto. A seguito di questo, quindi dell'Ecuador, anche la Bolivia ha introdotto un po' la stessa cosa, e qui stiamo parlando di anni 2008-2010, più o meno. E poi ci sono state, buffo, perché oltre a queste dichiarazioni veramente universali, per quanto mi riguarda, ci sono state anche delle dichiarazioni, sempre dei diritti, però di cose molto più puntuali. Quindi i diritti di quello specifico fiume, i diritti di quella specifica foresta, vari esempi ci sono di questa cosa. Per esempio, nel 2014 in Nuova Zelanda, i diritti della foresta Te Uruwera, non ho idea di che cosa sia ovviamente, ma insomma, i diritti di una foresta. Quindi, bello, interessante. Molto bello. Sì. È quasi come gli alberi monumentali, no? Riconosci, infatti, l'entità della foresta, quasi fosse una cosa sola. Esatto, esatto. Sempre parlando di diritti, poi nel 2019 in Francia, quindi ancora più recente, è stata stilata una dichiarazione dei diritti dell'albero. Quindi proprio specifico sull'albero. E questo a me sembra interessante, come anche ricordavi te, in relazione con gli alberi monumentali, perché a quanto pare stiamo elaborando una serie di percezioni più realistiche, insomma più elaborate, riguardo agli esseri vegetali, però siamo molto attratti dagli alberi. Cioè, come dire, gli animali ci piacciono, ma i cani sono più belli. O le piante ci piacciono, sì, ma gli alberi però... Sì, cioè... sì, bella l'erbetta, esatto. Che è verde e secca, cambia stagionalmente, però l'albero è l'albero. L'albero ci fa pianta. Più impressione. Esatto, e infatti una cosa che io ragionavo tra me e me è che in generale, proprio a conferma del fatto che siamo veramente scimmie stupide a volte, più un essere vivente è grande e più è interessante per noi. Quindi non è una regola, non è una legge questa, però diciamo che fra tutti i mammiferi ci piacciono tanto i leoni, ci piacciono tanto gli elefanti e le balene. Non certo, lo so, certo, sono no. Mammiferi grandi, no? Ci sono anche mammiferi molto più piccoli, i topi ci fanno schifo, i topi. O in generale comunque su tutti gli animali, gli insetti che sono piccoli non ce ne frega niente, mentre invece... gli animali più grandi ci interessano. Sì, siamo molto attratti come specie umana a la dimensione di un'entità ci dà la sua importanza. Mi viene in mente se pensiamo anche all'arte egizia, l'arte greca, agli albori, esisteva la gerarchia delle dimensioni a seconda dell'importanza sociale che tu ricoprivi. Wow, che riferimento incredibile. Sì, infatti, cioè, incredibile. E io penso però che questo sia proprio... scritto un po' nel nostro codice genetico, o non so dove di preciso, ma se non altro nel nostro cervello, perché fra di noi, fra noi esseri umani, se sei più grosso, hai più muscoli, cioè hai proprio una massa corporea più grande, sono più intimorita da te. Cioè è una cosa abbastanza comune, uguale con gli altri animali di cui... posso avere paura, di cui posso essere preda, no? Più sì, è grosso parte, l'animale... comprensibilmente anche, cioè sì. Più grosso, più ho paura... che questo nel caso si agiti io me la veda peggio tra i due. È sicuramente comprensibile dal mio punto di vista, ti spiego, però è una visione molto soggettiva del vivente, perché ci sono tantissimi esempi in natura in cui una specie prevarica, se vogliamo dire così, su un'altra, non con la forza fisica, ma magari pungendo, infilando un certo veleno, una certa tossina che fa cambiare i comportamenti di quell'altro essere vivente. Beh, 4 anni fa ci hanno chiusi in casa per colpa di un essere vivente a noi invisibile. Esattamente. Cioè, in realtà la natura non è così... non è come la vediamo noi. Cioè, e questa è la cosa che mi sembra anche affascinante. Cioè, studiare la biologia, studiare gli ecosistemi, secondo me serve proprio a relativizzare, come avevi accennato te prima, i giusti equilibri, diciamo, le giuste relazioni fra gli esseri viventi. Perché noi vediamo tutto ovviamente con le nostre lenti umane, ma in realtà il mondo è diverso. Quindi ci viene da considerare, tornando a quello da cui siamo partiti, un essere vivente più importante perché è più grosso, quando invece magari, che ne so, potrebbe esserci anche altri sistemi di valori, no? Mi verrebbe da dire, azzardo, che la natura è meno macista di quanto è l'uomo. Ok, sì, direi di sì. Direi una buona sintesi di quello che stavamo dicendo. Per riassumere. Esatto, esatto. E, quindi appunto, ecco, eravamo arrivati alla dichiarazione dei diritti dell'albero. Certamente bellissima, un passo in avanti. Io questa l'ho letta tutta invece semplicemente perché sono 5 articoli, era molto corta. Era breve. L'ho potuta leggere tutta. E, non me l'aspettavo così, devo dire la verità, perché è diversa, cioè ha veramente un'impronta diversa, uno stampo diverso rispetto alla dichiarazione dei diritti dell'animale. Cioè quella dell'animale è più o meno come l'uomo, soltanto che ci metti al posto di uomo animale. Quella dell'albero è un po' diversa, e innanzitutto perché spende molte parole spiegando che cos'è un albero. Cioè, per esempio, nell'articolo 1 dice: l'albero è un essere vivente fisso, in proporzioni comparabili, occupa 2 ambienti distinti, l'atmosfera e il suolo, e poi va avanti, dice altre robe, anche negli altri articoli dice altre descrizioni. E è interessante perché fa vedere che a quanto pare c'è bisogno di spiegare che cos'è un albero. Già abbiamo difficoltà a distinguere le piante tra di loro, quindi... Non è così intuitivo dire cos'è un albero. Infatti, tra l'altro, no, si diceva anche fuori dai microfoni, sì, ma qual è la la soglia fra un arbusto, un cespuglio e un albero? Certo, sempre domanda. Il banano è un albero? Esatto, io non ti so rispondere. Direi qui da noi no, ma nel suo ambiente naturale forse sì. Ah, per quanto ne so, tecnicamente è una pianta erbacea, non è una pianta arborea, però viene trattata come pianta arborea proprio per le sue grosse dimensioni. Ecco, vedi, si sono sempre a dimensioni. Sempre... Non andiamo oltre a queste in questi giochi di parole, direi non c'è bisogno. Allora, io concludo quindi tutto questo excursus legiferoso con una citazione di una certa Alessandra Viola, che ho scoperto solo in questi giorni, che è una giornalista in realtà che però si occupa specificatamente di ecosistemi, ambienti naturali. E dice così, va anche notato che la coincidenza fra la persona fisica e il soggetto di diritto non è assoluta né tantomeno naturale, ma invece, come si dice, relativa e storicamente correlata. Insomma, è legata ai tempi e alle diverse culture che la esprimono. Non c'è nessuna necessità logica o giuridica che imponga di considerare il soggetto di diritto un'individualità fisica. Del resto, nell'ordinamento di ogni paese esistono molti soggetti di diritto tutt'altro che vivi e tutt'altro che individuali, come navi, ordini religiosi, amministrazioni pubbliche, società, eccetera. L'ho voluta riportare questa cosa proprio come un po', diciamo, corona a tutto il discorso che ho fatto sulle leggi, perché come ora ci addentreremo meglio riguardo all'empatia nei confronti di animali e piante, perché non considerare anche le piante come soggetti di diritti? Quindi degli esempi li abbiamo già visti, i diritti dell'albero, i diritti di madre terra, li abbiamo visti, ci sono. E infatti è bello perché ci sono, ma ancora non è ben interiorizzata, no? Come cosa. Però se sappiamo che proprio a livello di diritto, quindi della... dell'essenza del diritto, non per forza qualcosa di, diciamo, semplice, statico, deve essere soggetto di diritto. Insomma, mi sembrava interessante da ribadire questa cosa. Allora, potremmo fare forse un'altra interruzione dopo questo mare. Vogliamo dare un'altra pausa ai nostri audioascoltatori? Sì, direi di sì. Vogliamo allora, visto che adesso ci spostiamo dal diritto verso invece una riflessione più su, appunto, su cos'è l'empatia e, diciamo, sull'intelligenza degli esseri viventi, potremmo ascoltare una canzone di Stevie Wonder che si chiama Venus Flytrap and the Bug. Brano tratto dall'album di Stevie Wonder's Secret Journey to the Secret Life of Plants del 1979, che ci racconta con questo brano dell'incontro tra una mosca e una pianta un po' particolare, e vediamo chi delle due ha la meglio. Me that question by closing its leaves and swallowing it. Ed eccola questa canzone folle di un altrettanto folle Stevie Wonder, a me sconosciuto, devo dire la verità. Fantastico, grazie per questo contributo. Quindi ripartiamo, no? Si fa tutto excursus sulle leggi, molto bello, molto noioso, a seconda dei punti di vista. Questo però ci serviva appunto come introduzione, come diciamo primo step per iniziare a ragionare un po' sulla considerazione che noi abbiamo di, delle altre specie viventi. Quindi, in particolare, l'avevo già anticipato all'inizio, ma in verso quali altre specie viventi noi sentiamo empatia? Noi sentiamo in realtà empatia di solito verso animali, e quali animali? Una certa un piccolo gruppo, la minoranza in realtà. In particolare, appunto, abbiamo detto i vertebrati, ma oltre che i vertebrati, i mammiferi. E oltre che i mammiferi, se vediamo, poi quelli con più empatizziamo sono gli animali che più ci stanno vicino, in particolare gli animali domestici. Abbiamo tutta una nostra gerarchia di empatia rispetto ai nostri amici animali. Sì, ma guarda, ma perché sta rimbombando tutto? Lo senti anche te? Ah, aspetta. Wow, c'è gli effetti. Alberi. Ecco, avevo mosso questa magica levetta del mixer senza minimamente rendermene conto. Cecità verso le piante. Bene, bene, scusate, deve essere Stevie Wonder che ci fa diventare un po' più folli. Stevie Wonder che ci fa un attimo... tutta colpa sua. Perfetto. Sì, giustissimo, questo stavi dicendo. E vorrei riportare qualche piccolo secondo di un video, di un canale che mi fa piacere anche pubblicizzare, anche se il canale non sa che lo sto pubblicizzando, purtroppo, se no poteva fare altrettanto. Ma... Però noi lo pubblicizziamo. Esatto. Quindi. Si chiama Entropy for Life, un canale di YouTube. Praticamente lui, vabbè, parla di varie cose. Nel video di cui vi facciamo sentire giusto l'introduzione, lui fa tutto un excursus, anche lui, riguardo a tutti i filum di animali esistenti, perché in realtà noi ci riferiamo sempre a una piccolissimissima parte di questi. E quindi, allora ve lo faccio... No, invece non ve lo faccio sentire adesso perché non ho collegato... Devo cercare questo video, scusate un attimo. Quindi ci sarà un secondo di musica, credo, nel dubbio. Mandiamo un po' di Hiroshi Yoshimura per voi. Esatto. Una cosa che ho notato è che la maggior parte delle persone, quando parlano degli animali, tendenzialmente nella loro testa stanno pensando soltanto a un piccolissimo gruppo di animali. Pensano semplicemente ai mammiferi, agli uccelli, ai rettili, al massimo ai pesci e basta. Bene, questo gruppo in realtà è molto piccolo, sono i cosiddetti vertebrati, che sono soltanto una piccolissima frazione della diversità animale. E quindi mi sono detto, cerchiamo di fare un video per mettere bene in proporzione le cose, per far vedere quanta diversità animale c'è nel nostro pianeta. Infatti, più che un albero vero e proprio, esistono più di 30 grossi rami ben separati gli uno dagli altri, che i tassonomi tendono a chiamare fila al plurale o filum al singolare. Ecco, ogni filum ha una diversa struttura corporea, un diverso sviluppo embrionale e si tratta sempre di gruppi molto poco imparentati gli uni con gli altri. In altre parole, ci sono più di 30 modi diversi di essere animali nel nostro pianeta. Pensate che tutti i vertebrati che abbiamo in mente appartengono soltanto a un filum, insieme oltretutto a due gruppi che tendenzialmente tendiamo spesso a trascurare, gli urocordati, queste specie di sacchetti di muco che si trovano nel mare, che sono veramente molto imparentati a noi, e poi i cefalocordati. Noi siamo un filum e poi ce ne sono tanti altri. Ecco, oggi vi parlo di tutti gli altri fila e vi faccio capire quanta diversità animale c'è in questo pianeta. Avrei potuto scegliere qualsiasi ordine. Ed ecco, quindi questa era l'introduzione al video del canale Entropy for Life, si chiama Tutti gli animali del mondo, semplicemente, il video. E, quindi fa capire, come ha detto lui, che ci sono 30 modi diversi di essere animali. A me questa frase proprio mi è rimasta in testa, cioè 30 modi diversi di essere animali, cioè noi siamo un tipo di animali, ma in realtà siamo proprio una piccolissima parte, cioè è pazzesca sta cosa, 30 modi diversi di una vivere. Piccolissima espressione. Esatto. Quindi ecco, e questo era un po' un'ennesima introduzione all'argomento. La realtà è che non c'è un argomento, l'argomento è l'introduzione. Infatti, esatto. Quindi ecco appunto, il discorso è che noi di solito ci riferiamo a una piccola parte degli animali. Facciamo quindi un altro esempio, che è veramente molto molto calzante riguardo al riferirsi solo a una parte degli animali, che è questa nuova, non così nuova, corrente dell'antispecismo, già vagamente nominato prima. Gli antispecisti, diciamo, arrivano dopo i vegetariani, dopo i vegani, ma sono quasi la stessa cosa, diciamo, dei vegani, se non per il fatto che hanno una visione un po' più ampia, cioè un movimento, diciamo, non solo strettamente legato all'alimentazione, ma un movimento politico più ampio che porta avanti una serie di valori, e questo io penso sia la sua parte più, cioè il motivo per cui è effettivamente degno di nota ed è molto interessante come movimento. Il punto fondamentale degli antispecisti è che noi, in quanto specie umana, non abbiamo il diritto di prevaricare le altre specie viventi. Quindi dovremmo assolutamente considerarci al pari delle altre specie viventi. Motivo per cui, di fatto, poi gli antispecisti non mangiano animali e nemmeno i loro derivati, cioè, e non usano neanche i loro derivati, esattamente come fanno i vegani. Quindi sono molto sovrapponibili, diciamo, come modi di vita. Sì, è un modo di essere vegane, sicuramente, essere esatto, antispecisti. Esatto. E, un modo, come dicevo, molto articolato, perché questa premessa, cioè che noi non possiamo considerarci più importanti o di maggior valore rispetto alle altre specie, è ovviamente una premessa con grosse implicazioni politiche, grosse implicazioni geopolitiche, sociali e tutto, etiche chiaramente. E quindi, insomma, ovviamente portano avanti una serie di principi, di valori, quali ovviamente la lotta al consumismo, totalmente condivisibile, o comunque la lotta allo sfruttamento degli habitat, allo sfruttamento anche degli esseri umani stessi, perché se non ci dobbiamo considerare più importanti di altre specie viventi, ovviamente anche all'interno della stessa specie dovremmo rispettarci. Anche tra umani, secondo l'antispecismo, non dovremmo abbattere tutto ciò che è maschilismo, tutto ciò che è razzismo, tutto ciò che è transomofobia. Certo. Esatto, esatto. È in generale, tra l'altro, anche una, un movimento che si prende tanto a cuore di tutte le minoranze, quindi per esempio tutto l'ambito LGBTQ, insomma queer in generale, e quindi si prende tanto a cuore questo, si prende tanto a cuore ovviamente l'antirazzismo e una serie di appunto di altre tutele, se così sì, vogliamo. È molto intersezionale, sì. Cioè appunto se vogliamo portare una dignità ambientale a tutto ciò che è, dobbiamo portare avanti il fronte su diverse battaglie. Esattamente, esattamente proprio così. Poi in realtà ovviamente, come sempre avviene, ci sono vari filoni e quindi ci sono anche varie critiche interne perché ma il suo modo di professarlo secondo me non va bene, eccetera, eccetera. Però questo è come, diciamo, dovrebbe essere da quel che ho capito, leggendo un po' sull'argomento. Qual è però, diciamo, la critica che io e te in questo momento li faremo in questa regia? Critica, parola pesante. Diciamo che noi ci siamo messi a riflettere, una riflessione sul fatto che l'antispecismo e lo specismo di pari passo si adagia molto in una sfera un po' limitata, che è quella verso gli esseri, verso gli animali. E basta, non ci si spinge oltre a dire tutte le specie del creato sono sullo stesso livello, perché questo avrebbe altre implicazioni morali molto molto interessanti e complesse. Sì, tra l'altro ci sono proprio a volte delle incoerenze, perché io appunto leggevo un libricino scritto da un antispecista che spiegava in cosa consiste il movimento, tutte le varie sfaccettature, e capitava raramente, ma in delle frasi magari diceva noi vogliamo sentirci da fare di tutti gli esseri viventi e quindi tuteliamo gli animali. Cioè erano proprio delle un bias, esattamente. Una distorsione di tutti gli esseri viventi, quindi gli animali. E dicendo, sì, ma gli animali sono tipo l'1% di tutto quanto. Contando poi come abbiamo potuto così, diciamo, assaggiare da quell'introduzione del video che vi abbiamo fatto sentire, ora diciamo, possiamo immaginare quanto è vasto il regno animale. Quindi appunto noi ci riferiamo sempre a una minuscola parte, invece ce n'è tantissime altre. Tra l'altro, poi se vi guardate il video lo scoprirete, tantissimi animali sono microscopici, cioè che fatichiamo a vederli a occhio nudo, alcuni proprio non si possono vedere a occhio nudo, e sono quelli che io credo nel linguaggio comune rientrino nella categoria di microbi, che in realtà a livello biologico non è una categoria... esistente. Sì, non è tassonomico, esatto. Un raggruppamento un po' così semplicistico, certo. Sempre sulla dimensione, tra l'altro, tutto sempre ciò che dimensione. È più piccolo questa di un tot, questa dimensione sta tornando. Esatto. Le è dimensioni considerato. Contano, sì. Questo stiamo imparando. Benissimo. Sì, no, c'è da dire, allora, abbiamo detto che appunto non considerano tutte le specie, nonostante specie è una cosa riportata nel loro nome, però onor del vero, bisogna riconoscere che gli antispecisti parlano di portare pari dignità a tutte le specie che presentano coscienza. Per questo parlano poi solamente di animali, perché limitano la coscienza a un qualcosa di animale. E forse questo è un argomento interessante che ovviamente la comunità scientifica in questo momento sta esplorando, e anzi proprio pochi mesi fa, ad aprile scorso, a New York, l'impresso di New York University, si è tenuta una conferenza proprio sulla coscienza degli animali, ed è stato pubblicato il New York Declaration of Animal Consciousness, ovvero firmato inizialmente da una quarantina di scienziati provenienti da i più disparati campi della biologia e non solo, di fronte ha riportato 10 ricerche che mostrano un comportamento negli animali che fa pensare a quello che loro chiamano coscienza fenomenica, ovvero loro distinguono coscienza non è se io ricevo uno stimolo e rispondo, allora ho coscienza. Deve esserci qualcosa di più, deve un atteggiamento che può mostrare con l'apprendimento, con la memoria, con la risoluzione di problemi o con il riconoscimento di se stessi. Ad esempio, hanno fatto dei test sul labride pulitore, che è stato un pesce tropicale, che è stato capace di riconoscersi allo specchio. Vedendosi allo specchio, ha fatto tutte le fasi del mirror test, addirittura quando sullo specchio l'hanno macchiato, lui vedendosi è andato a pulire la parte riflessa. E voi dite, ma non solamente, questo è la vista, molti altri animali ragionano con l'olfatto. E infatti col serpente giarrettiere hanno fatto il test dell'olfatto e hanno notato che facendoli sentire vari odori, tra cui il proprio odore e in un altro campione anche il proprio odore tracciato con qualcos'altro, il serpente mostrava particolare interesse sul proprio odore tracciato di qualcos'altro, quindi capace di dire ok, questo odore sono io, come se noi ci vediamo allo specchio, diciamo quella persona riflessa sono io. E quindi questo loro appunto l'hanno chiamata coscienza fenomenica, che è una coscienza grezza che si distribuisce su molti animali, ma non solo mammiferi, non solo i vertebrati, anche sugli invertebrati hanno visto comportamenti che possono rientrare in questa coscienza fenomenica. Ovviamente loro non ne parlano in maniera assoluta, ma dico sono tutti comportamenti che indicano una certa direzione, una certa intuizione ti fanno venire. E suggeriscono in fondo a questo trattato anche che di fronte a questo tipo di coscienza sarebbe importante applicare anche una morale sociale e quindi anche una legislatura adeguata. Certamente, direi decisamente utile e interessante questa cosa. Secondo me, dal mio punto di vista, utile e interessante anche a seguito di tutte le norme, leggi, decreti, dichiarazioni, eccetera, che abbiamo visto prima. Proprio a proposito degli animali. Quindi, certo, se pensi anche alla prima che hai letto, che era del 78, sì. Che già però lì poneva uomo e animale sullo stesso livello. Esatto, per come era scritta. Esatto. E, quindi sì, interessante. E si ritorna anche tra l'altro un po' sul tema dei vari livelli. Cioè c'è il livello di, diciamo, chiacchiere popolari, dicerie popolari, poi c'è il livello legislativo, poi c'è questo invece che è più scientifico, ti dice quei scienziati hanno dimostrato che, e non solo, si può chiamare questa cosa con questo nome solo quando ci sono queste... Sì, loro individuano ovviamente un po' come tutto il mondo accademico, si va per definizioni, quindi hanno riusciti a definire un tipo di coscienza. Infatti poi in realtà fanno anche un ragionamento interessante su che questo tipo di coscienza non prevede livelli superiori come può essere il pensiero astratto, il linguaggio da parte dell'essere umano, ma parlano anche del fatto che magari certi animali possono aver sviluppato un loro sovralivello di coscienza, un livello di coscienza superiore, completamente differente dal nostro. Questo sarebbe un ottimo inizio, diciamo, l'apertura di una nuova porta, secondo me, perché è un po' lo stesso argomento anche che già si citava prima, cioè se noi continuiamo a vedere il mondo con le nostre lenti di esseri umani, continueremo a avere una visione oggettivamente sbagliata, in quanto parziale, no? Soggettiva, appunto. E quindi direi che in conseguenza penso che sia difficile attuare poi dei comportamenti rispettosi, appunto, della Terra su cui ci troviamo e dell'universo in cui stiamo. E rispettosi anche tra noi esseri umani, tra l'altro, cioè è sempre tutto molto, molto collegato. Mandiamo un altro pezzo, che ne pensi? Direi che abbiamo messo tanta carne al fuoco. Sì, che pezzo mandiamo? Mandiamo quello speciale? Mandiamo quello speciale. Potrei averlo chiuso. No, aspetta. Quello divertente, dicevi. Quello divertente. Dai, ci sta effettivamente. Quello divertente. Riagganciamoci. Anche perché questo poi si riaggancia a quello che abbiamo ascoltato prima di Stevie Wonder. Perché la pianta particolare era la Dionea muscipula, ovvero la più comunemente conosciuta, la prima pianta carnivora che vi viene in mente quando pensate a una pianta carnivora. E questo brano nuovamente parla di una pianta carnivora, di una dionea, si chiama Grow For Me, scritto da Alan Menken nell'82 per il musical Little Horror Shop, la piccola bottega degli orrori, che nasce a sua volta da un libro di cui hanno fatto due film, e poi Alan Menken scrive un musical in cui parla di quest'uomo che prova a far crescere una dionea, non gli riesce, per poi scoprire che questa dionea è molto carnivora, cioè apprezza il sangue umano, e questo si ritrova quindi pian piano a dover nutrire di cadaveri che lui uccide, e nulla, poi non vi spoilererò il finale di questo film certamente. E in questo brano che ascoltiamo ora abbiamo la realizzazione del curatore di questa pianta, che questa pianta è molto molto carnivora. Ah, oh, Tui, I don't know what else to do for you. Mr. Mushnick and Audrey, they just met you, but I've been going through this with you for weeks. Grow and wilt, spurt and flock. Are you sickly little plant, or are you just plain stubborn? What is it you want? What is it you need? I've given you sunshine. I've given you dirt. You've given me nothing but heartache and hurt. I'm begging you sweetly. I'm down on my knees. Oh, please grow for me. I've given you plant food and water to sip. I've given you potash, you've given me zip. Oh God, how I missed you. Oh pod, how you tease. Now please grow for me. I've given you southern exposure to get you to thrive. I've pinched your back hard like I'm supposed to. You're barely alive. I've tried you at levels of moisture from desert to mud. And I've given you grow lights and mineral supplements. What do you want from me, bud? Ouch! Damn roses, damn thorns. Clumsy me. Look what I did, Tui. Hey, you're opening up. What made you do that? Drops couldn't hurt, long as you don't make a habit out of it or anything. I've given you sunlight, I've given you rain. Looks like you're not happy, unless I open a vein. I'll give you a few drops, if that'll appease. Now please, oh, oh, oh, please, grow for me. Ed ecco questo simpatico brano, quindi, riguardo a come si dice appunto la dionea, la pianta carnivora per eccellenza, molto molto simpatico davvero. Little Shop of Horrors era, mi sa, il nome quindi dell'album. Grow For Me, quindi era il nome titolo... il nome del musical era. Ecco, Grow For Me, il nome del brano. Ecco, quindi se ve lo volete ricercare. Comunque, vabbè, come sempre in realtà nella pagina del mio podcast metto sempre tutti i titoli delle canzoni. Bene, mi accorgo solo adesso alla bellezza delle... insomma, dopo un'ora e mezzo di puntata che non ho dato nessun contatto della radio, neanche mezzo per sbaglio. Lo farò adesso, meglio tardi ecco. Che mai. Quindi siete su Radio Wombat, la radio libera socialista di Firenze, ovviamente sempre da ricordare molto bene questo aspetto. Ci trovate su radiowombat.net, da cui potete sentirci in streaming, ma da cui potete trovare anche tutti i podcast, come accennavo, tutte le trasmissioni. dalla sezione contatti potete anche trovare il pad da cui di solito potete chiacchierare con noi, ma oggi in realtà ci state sentendo, siamo registrati, perciò in realtà non c'è interazione in diretta, ma noi vi vogliamo tanto tanto tanto bene lo stesso. Ci sarà la prossima volta. Diciamo voi scrivete comunque, che sì, certo. Metti che poi rispondiamo lo stesso. Infatti, è quello che consiglio sempre. Voi scrivete nel dubbio. E ultimo contatto, infine, se siete magari in macchina e state spostando, siete radioamatori, potete provare ad ascoltarci sulle 13.59 della modulazione di ampiezza, quindi frequenze AM. E siamo molto contente se ci ascoltate da lì in particolare. Quindi, allora, continuiamo e anzi andiamo un po' a conclusione, almeno per la puntata di oggi, se non altro, di questi argomenti. Allora, quindi, giustamente si parlava di esseri viventi che hanno la coscienza e, per esempio, gli antispecisti che si riferiscono soprattutto a quelli quando dicono che dobbiamo rispettare gli esseri viventi. E infatti, come si diceva, mangiano soltanto robe vegetali. Il punto però che mi ponevo è che, ma se voglio mangiare solo piante, fondamentalmente, quando si accorgeranno che anche le piante sono esseri viventi, cosa mangeranno poi? Quando si aprirà lo scrigno di Pandora e verrà fuori i demoni della coscienza delle piante. Esatto, esattamente. Tanti peccati arriveranno a quel punto. E la faccenda morale sicuramente si complicherà molto, perché a quel punto dovremo fare pace anche con il nostro essere eterotrofi, cioè doverci nutrire gli altri esseri viventi. Infatti sì. Io vedo due opzioni semplicistiche che si basano molto sull'ottimismo tecnologico. Secondo me la prima: potremmo mangiare solo cibo sintetico, che è un'opzione sicuramente, nel momento in cui riusciremo a sintetizzare qualsiasi tipo di cibo a costo non esorbitante. Oppure l'altra, secondo me, è la vera via su cui dobbiamo spingere tutto quanto e ripartire con la sperimentazione umana e riuscire a far fare la fotosintesi agli esseri umani. E risolviamo tutto. Benissimo. Per ripartire a far fare la fotosintesi, cioè, quindi vuol dire noi la facevamo prima la fotosintesi, no, in tempi lontani. No, purtroppo no, però magari, no. Magari. Ma è una parte di noi, sì, dai. Beh, i nostri parenti erano molto molto lontani. Esatto. Che tuttora esistono, gli alberi con cui in fondo in qualche modo molto lontana comunque siamo imparentati. Ma ancora prima, tutti c'hanno batteri responsabili dell'inquinamento dell'ossigeno nell'atmosfera. E di cui ancora devono pagare le cause. Assolutamente, ecco. Esatto. Sì, questo è un tema interessante, effettivamente. Comunque io in parte mi sento che un po' fotosintetizzo, Un po' lo sento. Te lo senti? Ti senti un po' verde certi giorni quando ti esponi al sole. Esatto. A parte scherzi, ti giuro che io ho bisogno di stare al sole. Cioè, mi cambia veramente l'umore. Ora non sto dicendo niente di nuovo, ovviamente si sanno queste cose da decenni ormai, credo, che è proprio il sole stimola delle robe, insomma, ci fanno star bene, la felicità, che bello. Certo, tutte delle cascate di ormoni e altre sostanze che a noi ci tirano sul morale. Noi siamo fatti per vivere all'aperto, fatti per vivere sotto il sole. Esatto, infatti. Dissero da uno stanzino buio. Benissimo, e però io su di me questa cosa la sento, infatti con gli amici io ci scherzo, me lo dico, vado un attimo fuori a fotosintetizzare. Vado a sintetizzare un po' di zuccheri, sì, un calo di pressione, vado un attimo al sole. Scusate. E guarda, dall'idea che funzioni, cioè secondo me potremmo iniziare a sentirci un po' più vicini alle piante per davvero. Sarebbe una bella cosa. Insomma, è il futuro, ho detto, bisogna investire tutto su diventare autotrofi, così zero beghe morali, zero sbatti, non c'è neanche più bisogno di andare troppo a giro, basta stai ferma al sole come la pianta. Comunque, ora, non vorrei dire, ma di solito, no? Quando si pensa agli alieni, come ce li immaginiamo? Come te li immagini? Chi non se li immagina grigi? Chi? Chi? Verdi. Ah, verdi. Verdi. Ah, certo. Scusa, stiamo ascoltando anche l'album Green, quindi sottofondo. Certo. Certo, cioè, gli alieni di solito sono gli esseri superiori che riescono a arrivare sulla Terra quando noi non facciamo nemmeno un centimetro al di fuori della nostra galassia, e figurati. Beh, anche del sistema solare difficilmente ne usciamo. Sì, e sicuramente esatto. Non esseri viventi ne escono. Infatti, e invece gli alieni incredibili riescono a venire a trovarci e sono sempre verdi. Vedi? Sono forse sempre per verdi. Quello, non ci ho mai pensato. Perché ma... sono autotrofi, perché noi già... subconsciamente riconosciamo nelle piante un organismo superiore rispetto a noi. Sì, sì, sì, sì. Ora, siccome hai detto una parola, mi ha fatto ricordare una cosa bellissima che è successa alla puntata scorsa, la settimana scorsa, quindi, che è venuto Orlandino qui in regia, Orlandino, con noi e ci ha aiutato a scoprire come funzionano le piante e quindi, vabbè, insomma, mi piaceva l'idea di far scoprire proprio a un bambino come funzionano le piante, proprio perché non dovrebbero saperlo, no? Il mio punto di partenza era un po' quello. E ovviamente nel quiz che gli avevo fatto, così un po' simpatico, c'era anche la domanda, chiaramente, cosa significa essere autotrofi? Non sapeva la risposta, anche se mi sembra l'abbia azzeccata, ma perché c'erano le opzioni, magari no, era un po' così, un po' a intuito o a fortuna. E quindi poi gliel'ho spiegato, guarda, eterotrofi vuol dire che le piante si fanno il cibo da soli, quindi te mangi un hamburger già fatto, invece loro prendono tutti i mattoncini, li mettono insieme, creano una molecola che è un hamburger in miniatura e se la mangiano, non è quello il loro nutrimento. E lui l'ha capita benissimo questa cosa e infatti la sua risposta dopo è stata... Ah, ma le piante sono proprio wow! Ma le piante sono proprio wow! Questa sì. Dovremmo scriverla ovunque, ma le piante sono proprio wow! Esatto, ora faccio un cartellone per regia anche. E dopo, cioè, era veramente stupito da questo fatto, infatti continuava con tutti i suoi commenti in cui diceva, ah, ma certo però le piante sanno fare tante cose, eh? E mi ha addirittura chiesto, ma allora è per questo che ti piacciono le piante a te? Cioè... Ragazzi, io non lo so, non vorrei dire, ma un bambino che è riuscito a capire cosa significa essere eterotrofo, che è riuscito a capire quanto è wow questa cosa, cioè quanto è pazzesca, quanto è lontana da noi, è diversa, e quanto è potente, no? Cioè è una risorsa. E quindi ha collegato il fatto che io, stupido essere umano, ho deciso di interessarmi alle piante perché li considero esseri non superiori, ma insomma esseri affascinanti. Non so, è stato un bel momento. Beh, sì, sì, davvero. Perché altro vedere appunto in un bambino questa quasi empatia, potremmo chiamarla, sì. Immediata, costruita dopo la scoperta di ciò di cui sono capaci di fare le piante. Sempre... E guarda, mi dai un assist incredibile, cioè questo è a maggior ragione una prova del fatto che bene l'empatia, le emozioni, parlare delle emozioni con amici e amiche, però studiare anche aiuta, quindi la conoscenza, cercare di impedire il più possibile l'ignoranza è una cosa che aiuta non solo a sentirsi fighi, non solo a fare discussioni fighe, non solo a diventare magari lo scienziato di turno, ma aiuta davvero alla comprensione del mondo, degli ecosistemi e quindi potenzialmente, questa è la mia grande speranza, a una giustizia maggiore, insomma, in tutto il mondo, verso tutte le specie viventi. Insomma, studiate, studiate, studiate. E ascoltate Nervature, perché Nervature spiega se anche ai bambini. Se non avete voglia di studiare, ascoltate Nervatura, fate prima, è ovvio. Ecco, infatti, infatti. Benissimo. Quante altre cose si potrebbero dire al riguardo? Avevamo un ultimo, diciamo, spunto, no? Da collegare. Facciamo l'ultima riflessione, appunto, a proposito di questa coscienza che abbiamo detto, la coscienza degli animali, ma diciamo che di pari passo a questo studio, che da una parte ci sta a partire da chi è più prossimo, partire da noi a chi è più prossimo per studiare e poi allontanarsi, ma ci sono oramai ricerche svariate che mostrano che questa coscienza fenomenica potrebbe tranquillamente allargarsi non solo agli animali, ma anche alle piante. Ad esempio, abbiamo la nostra Monica Gagliano, che una ecologa che oramai vive in Australia, ma lei ha fatto delle ricerche molto interessanti, ad esempio sulla mimosa pudica, che è questa pianta che al contatto chiude le foglie, e mostrando come ripetendo lo stesso contatto alla fine questa smetta di chiudere le foglie, mostrando quindi una memoria all'interno della pianta, quindi uno dei requisiti per questa coscienza fenomenica. Ma addirittura lei è andata a ripetere questo stesso contatto in contesti diversi, in condizioni atmosferiche diverse, mostrando che comunque la mimosa pudica riconosceva questo contatto e non si chiudeva. E come la mimosa pudica ce ne sono tantissime. Abbiamo citato prima la Dionea muscipula, e questa è una pianta che mostra un comportamento complesso, perché la chiusura sì è dovuta alla stimolazione dei tricomi, dei peli che sono presenti all'interno della bocca, ma deve esserci un doppio contatto a distanza entro i 20-30 secondi, altrimenti non si ha questa chiusura, non si ha l'impulso elettrico che fa sì che la pianta si chiuda. E quindi questo è un comportamento che ti fa dire: ok, stiamo parlando di un, se diciamo prima, no, stimolo e risposta non è coscienza, qui abbiamo una grossa complicazione all'inverso, cioè c'è una serie di vie che si percorrono prima di avere la risposta, e che fanno presumibilmente pensare proprio a che anche le piante siano dotate di questa coscienza fenomenica, almeno. Eh sì, un algoritmo complesso, direi. Se non altro, almeno un piccolo programmino scritto c'è dentro le piante, c'è grossa complessità, sì. C'è molta complessità, sì. È solamente difficile vederla, perché essendo molto distanti da noi, non a caso noi si studia la mimosa pudica e la dionea, perché hanno comportamenti di movimento molto rapidi, che a noi ci ricordano i comportamenti, essendo animali che si muovono molto. Infatti uno dei limiti enormi per la percezione che noi abbiamo degli esseri vegetali è proprio la dimensione temporale, perché per noi esseri umani specificatamente la vita è, diciamo, misurabile all'interno di decine di anni. Per una pianta possono essere centinaia, in dei casi anche migliaia. E come invece per dei batteri possono essere, non so, ore, forse giorni, anche pochi minuti. Minuti, ecco, quindi si torna sempre lì. La vita, per come è davvero, che noi ancora non sappiamo davvero com'è, però stiamo iniziando a capire che è molto più complessa di quello che pensavamo. Sì. E quindi la realtà è molto più complessa, cioè non si sta solo parlando di «oh, ma lo sai, ho scoperto una cosa ganza». No, cioè, oh, ma lo sai che non avevamo capito un cazzo dell'esistente fino ad oggi? Cioè, un po' un altro livello. Sì, di... stiamo smontando il piedistallo su cui ci siamo messi per millenni, e adesso stiamo vedendo, forse no, non siamo così in alto. O perlomeno qui su Nervature lo stiamo smontando, certo, chissà ovvio, se... ovvio, su Nervature, chi altro? Esatto. Quindi sì, tra l'altro, appunto, volevo citare anche... diciamo banalmente, fra virgolette, il fatto di riuscire ad adattarsi a diverse condizioni ambientali di una pianta, questo, insomma, il fatto che le piante riescono ad adattarsi, no, a diverse condizioni in modo anche repentino, quindi oggi sono alla luce, poi qualcuno mi ha spostato e sono all'ombra quando sono in vaso, magari così, e riescono a riadattarsi. Io non so se a livello scientifico è considerabile tale o no, ma a me questo mi sembra proprio intelligente, cioè mi sembra, non so se proprio usare specificatamente il termine intelligente, ma direi sono belle sveglie le piante, cioè sanno cosa gli sta succedendo intorno, sanno come reagire, sanno come vivere bene. Sì, noi una cosa che sappiamo è che loro hanno percezione. Sicuramente loro percepiscono e sanno dove sono. Il punto che noi ci domandiamo è: possiamo chiamare questa intelligenza? Possiamo chiamarla coscienza? Non ci sentiamo ancora in grado di dare al 100% una risposta netta, e quindi continuiamo gli studi. Sicuramente però gli studi degli ultimi anni sembrano sempre più indirizzare verso una risposta positiva in questo senso. Sì, e infatti io personalmente penso che chiaramente sono molto intelligenti le piante, e, però ovviamente è un mio pensiero, non è ancora magari provato scientificamente tutto, però come sempre chi fa ricerca in realtà è mosso dalle proprie opinioni di base, cioè fai una, come si dice... fai la tesi, poi fai, sì, fai l'esperimento, ipotesi, esatto, esperimento, esatto. E poi verifica. Quindi si parte comunque sempre da lì. E, la cosa, diciamo, ulteriormente affascinante, secondo me, è che continuando in questo filone di ricerca, spero che si riesca a capire, ma già un po' si sta facendo, che forse l'intelligenza non è solo quella nostra. Cioè ci sono altri tipi di intelligenza, o se vogliamo troveremo dei nuovi modi di chiamarla. Comunque il punto è che ci sono anche altri modi di essere. Un po' come diceva il video di prima, cioè c'è tanti modi di essere animali, come magari c'è tanti modi di essere coscienti forse, o comunque di avere capacità nell'elaborare, nell'essere resilienti, nell'adattarsi, eccetera, eccetera. C'è tanti modi, certo, potrebbero esserci tantissimi modi diversi in cui l'intelligenza si esprime, sì, a livelli molto alti, paragonabili, esatto, al nostro, ma che noi non ci rendiamo conto. Certo, sì, sì, sì, il, sì, velo di Maya, Schopenhauer, che il velo di Maya, noi con le nostre, siamo confinati alla nostra percezione sensoriale, non potremo mai vedere la vera essenza del mondo. Direi sì, decisamente pertinente, anzi è proprio quello che... sì, esatto. Infatti sì, difficile sarà proprio questo, secondo me, cioè continuare nella ricerca scientifica senza farsi, diciamo, riuscendo a scavalcare ogni volta i nostri bias, appunto, percettivi, quindi i nostri limiti, le nostre lenti, eccetera, eccetera, eccetera. E, che dire, abbiamo veramente, comunque direi, sviscerato bene l'argomento. Ce ne sarebbe da parlare ancora per giorni, senza dubbio. Se ne potrebbe parlare sicuramente per mesi. Sì, però sì, sì. Potremmo, direi che per oggi siamo andati avanti abbastanza. Direi proprio di sì. Sono curiosissima di sapere se voi ascoltatrici avete opinioni, riflessioni, domande o... chissà in merito, e infatti davvero scrivetecelo semmai sul pad dal link diretto a wombat.vado.li e cercherò di leggerlo nei prossimi giorni e magari rispondere o comunque mettere da parte i vostri commenti, altrimenti dalla sempre sezione contatti del sito radiowombat.net trovate anche altri modi di interagire con noi, in particolare la mail, quindi posta wombat@insiberia.net, o se no anche la messaggeria vocale, che è un altro strumento potentissimo. Voi semplicemente in quel modo riuscite a registrare un messaggio vocale che automaticamente ci verrà inviato tramite la nostra casella di posta, appunto. Quindi noi possiamo recepire i vostri messaggi non solo scritti ma anche vocali, e questo è bellissimo. E quindi per favore, davvero, se avete contributi, mandateli in tutti i modi quando volete. Noi da qui direi vi salutiamo, quindi in questo lunedì 22 luglio afoso, ma anche nello stanzino buio. Al caldo e al buio. Esatto, esatto. Ci risentiamo decisamente con Nervature settimana prossima, e vi annuncio che settimana prossima sarà una puntata specialissima, perché sarà la 50ª puntata della trasmissione. Ben 50. Ancora no, aspetta. Alla prossima. Un'altra settimana. Esatto. E quindi per voi preparerò una grande sorpresa, ma non vi dico ancora che cosa, quindi l'unico modo che avete per scoprirlo è rimanere assolutamente connesse sempre su Radio Wombat. Nervature va sempre in onda il lunedì alle 19, mi raccomando, collegatevi. Stay tuned, come si dice. Io manderei un ultimo brano. E potremmo mandare un brano invece carino, sempre un po' riguardo alle piante, però qualcosa di allegro. Direi quindi di mandarvi un bellissimissimo brano di Manu Chao, che si chiama in particolare Seeds of Freedom. Che ne pensi? Beh, Seeds of Freedom penso sia una delle più belle canzoni mai scritte, soprattutto il messaggio che vuole mandare Manu Chao di ripartenza da semi naturali e di unirci tutti insieme sempre contro le multinazionali.